sto lavorando da sera, e con piazza a tutti i campai della Sassari, e sono anche amico dell'amico Silvio Molaro. Ok, da Roma stai modulando il interrogativo, puoi serve. Campa, campa, ok. Sento amico, mi ascolti ancora? Ciao Gianni. Attento, l'amico della Silvia ci ascolti ancora a Sassari? ad essere numerosissimo, un gruppo, se cade uno, addio, cadono tutti, ti puoi far male veramente, altro che. Ma la pena non l'hai cambiata ancora tu. Non ho capito. Ma sei ancora non l'hai cambiata, no? No, io quando non arrivo all'estate, anche perché ancora non ce l'ho, non l'ho comprata. Ma la comprerò. Noi siamo giuristissimo, però diciamo che a dire la verità non è che mi entusiasmo più di tanto, la cambio perché questa ormai manca la metà dei radiali, sicché si può immaginare. L'ho acceso adesso e ho sentito appunto quello che chiamava e l'ho risposto, quello che ho fatto la sera, rispondiamo a questa, vediamo un po' che cosa mi dice. E poi ho sentito anche poi nessun altro. Non mi intorniamo più di tanto, Gianni, non c'è niente di interessante. Preferisco seguire la televisione oppure andarmene in giro, mi faccio la passeggiata e via. Sì, quando capita una buona compagnia, un buon paese, tutti gli amici sono interessanti, indubbiamente, questo non posso negarlo. Però se installiamo un paese interessante, allora mi va bene, ma se per sentire come sto uscendo, come lo sto uscendo, guarda questo, guarda quell'altro, non mi interessa, ti ho sentito tante volte ti ho detto come stai uscendo, altrettanto tu l'hai detto a me, via, non mi interessa più di tanto, non ti interessa. Sì, infatti no, io ero nell'accesso, ero parecchi giorni, ero parecchio per un tempo più, era attaccata l'antenna e cambiava la stazione, sì, semplicemente per qualche tempo lì, poi lo stasera un po', siccome mia moglie è uscita con mio figlio da mamma, oltre a tutta la mamma, accompagna a mia madre, che ha visto una centina di mesi da qui. Io non ce l'ho stamattina, ero stato per qui, non so bene chi c'è, stavo parlando un po' con qualche capo e poi anche Panchetto avevano a fare niente, che abbiamo fatto un po' chiacchierato le prese e poi tirato il canale, ho sentito a te e ho parlato con quelle cose da pensare e così, però non è più entusiasmante come quando ho acquistato e mi sono sentata. Ero appagato di avere il paracchino. Sì, io avevo preparato, stavo chiedendo. Sì, no, ma ripeto, gli amici per me sono tutti interessanti, tutti alla stessa maniera e mi piacciono tutti, soprattutto quelli che ci sono rimasti, e sono persone alla quale io voglio parlare, però vuoi fare anche dei discorsi, non sentire com'è questo è qua adesso, com'è questo è capito, sono un microfono per quello. Comunque in momento di pubblicità che c'era, che avevo interrotto la corsa per andare alla pubblicità, proprio quell'istante ho acceso e ho sentito appunto questo della Silvia che stava chiamando, ha fatto basta, rispondiamo, sentiamo un po' chi è e così via, niente di più, capito, se no non ero interessato al palacchino in quanto stavo guardando la televisione, capito, già, tutto lì, niente di particolare. Ma anche io non si è portato più di casa, vado in 40 metri come ricevitore, che ha detto come ricevitore da 0-3, mi sembra in 40 metri a tutto e non c'era, non fosse stato il circuito più quello, hai capito ciò che era il ricevitore, ho pensato, se la vuole dare di questa patente però anche di cui non parlerò, tu hai capito, anche la scusa, però qui. Mi affaccio perché fa sempre piacere, quando diciamo la roba diventa un bel giro, no? Che dipende, sto provando questo, sto cambiando la cassa, sto facendo questo, sto facendo quest'altro, e poi se mi metto a parlare con te di queste cose, di questa o di che cosa, magari ci sono gli altri di nascosto, che rimangono i tuoi ricchi, che si trovano anche molte cose. Sì, no, oddio, ero totalmente ascolto, ma diciamo non più come prima, prima ascoltavo sempre l'OKF, ascoltavo una volta quando mi collegavo, nel senso, questo collegavo sempre molto tardi, una volta intorno a mezzanotte e mezzo, si chiama quando era lì, ora è dormire e basta, non so via. per cambiare la apparecchiatura e ascoltare il ricevitore, non è tanto meno al baracchino, facciamo. Mi seguo uno, due figli, tutti minuti, se c'è un programma sportivo mi vado allo sport, mi invia, ti chiamo a volte così. La sera quando rientro di subito, verso le 8:30, generalmente arrivo alla luce, quando rientro dal lavoro, poi la cena subito, e non avevo il tempo di accendere, capito? Poi iniziano i programmi TV, allora seguo la televisione e ciccia, capito? Niente di particolare. Poi naturalmente quando ci sono belle giornate, anziché farmi a casa, preferisco andare in giro, preferisco io magari con la famiglia o anche lontano, non solamente nelle vicinanze estate, ma anche lontano. Di conseguenza passo la giornata così, capito? Infatti, ma essendo un esperto appunto perché a uscire le giornate non sono tanto permissive, perché le strade fuori, se riesci te le fai giro, poi se ce l'hai in macchina lo accendi, se fa solo, però diciamo che io in estate per quando accanto un baracchino a 5 di 10, ma soprattutto la chiacchierata, le giornate bene bisogna anche approfittare a uscire, quando si può e così. No, ti volevo dire di una cosa, non l'hai mai acceso, no, vero? Ogni tanto lo accendo per farlo scaldare, ma non lo uso, però non lo uso mai, difficilmente, anche perché ce l'ho conservato dentro una scatola, c'è il costal, c'è il polmar, c'è una scatola un po' grandetta. Tutto impacchettato e messo da parte, tutto un po' incartato, sigillato, anche all'inizio, però ogni tanto apro la scatola e li accendo, anche così non lascio il stand-by senza bisogno di utilizzare, anzi devo dire che non attacco nemmeno l'antenna, li accendo e basta, solo per farli scaldare, senza antenna, senza niente, e basta, tutto lì, capito? Quindi, guarda, quella parte ne ho uno, due, tre, 4 o 5 ne ho qui davanti e più tutti gli altri più su, figurati un po', più così loro che mi dicono cosa è quello con loro, qua non voglio stare lì a stare sempre manomettendo, manovrando, stare avanti con questi che ho qui davanti e via. Ok, Radio Coppo, è l'amico qui da Sassari, ormai dalla Sardegna, quindi quindi oscillante su Santiago di Stenzio, una radio un po' prestigiosissima, quasi 5, e ti mando avanti la rigo Giulio Moro da Bucchia a distanza, e avanti Giulio. Ok, sono chiamato con un segnale 16 di sì, con una radio intervallata, però è buona la radio, ma non è nel migliore, comunque è qui a una stazione, c'è un disturbo che è da fastidio abbastanza, e avanti Radio Cocco di Caltanissetta per Giulio da Sassari. Turchia, non c'è nessuna frequenza, io questo turco, tranquillo, Pacifico. Stranamente, per giunta, tranne l'altro giorno stava anche un po' più vicinando, ti puoi immaginare. E beh, adesso è il momento in cui c'è la pista di propagazione e avremo sicuramente dei collegamenti con tutta l'Europa, non solamente con l'Italia, ma con tutta l'Europa sicuramente. Fabio, sono pronto, però stare la stessa. Vediamo di farci la festa fritto in questi giorni a tanti mesi a fare la giornata buona, ero in filo, pronto e mi alzate con la buona meglio anche. Beh, sicuramente questo sì, lo credo. Vabbè. Comunque, abbiamo fatto tanti collegamenti. Sapessi qualche cazzo di ero che. Io sono messo, se mi conto ce ne saranno 1.300-1.400 di cartoline da tutte le parti dell'Europa, anche nel Brasile, pensa un po', è stato il tutto, ma prima era più, diciamo così, più affollata la frequenza e c'era anche più disponibilità per fare lo scambio della QSL, oggi invece fa il collegamento e tanta gente non vuole fare lo scambio, no, non è un problema, comunque, ormai, sono passati già. Che non tornano più, purtroppo non tornano più. Poi avevo una valigia la mamma, poi non c'è col vecchietto, quando ha fatto la casa nuova, tanto se ci siamo trasferiti, molte sono andate perse, poi le altre c'erano i piedi di fuori, si sono tutte appiccicate e ce la siamo buttati via tutto. E vabbè, quello sì, no, io non li ho buttati, però diciamo che ne ho quasi persi di vita, ma sono conservati dentro la scarpa, e ben conservati, anzi diciamo che ne ho anche dubbi, perché magari per le stessi colleghi li ho collegati più volte, capito? Allora ho avuto modo anche di scambiarle più volte. Prima mi ricordo tutte le mattine immancabilmente, negli anni passati, parlavo con la, aspetta qual era quella città nella Puglia era, lo sai che non mi ricordo, comunque nella città della Puglia, alle 5:30 del mattino accendevo e c'era questo QSO, sempre un gruppo di 7-8 persone, e io facevo break, poi entravo così direttamente, sta sempre come un domani con Sassa, hai capito? E infatti noi mi conoscevamo anche dalla voce, pure a un certo momento, perché saremmo stati tutta l'estate che ci sentivamo la mattina presto, e era bello, insomma, ecco, quindi purtroppo questi collegamenti qui non si fanno più, oggi si fa altro chiacchiere poi si chiude subito, o perlomeno si passa ad altre cose, hai capito? Così noi oggi rimanevo a giornate intere, pensa che allora forse devo stare in casa di non prendere fuori anche dalla macchina, mi mettevo la macchina di papo e lì sapevo la stigma di quelle diciamo con la molla grande, la stigma di Ex, una che ne ha passato sopra da quella curva più, diciamo, più stretta, e dopo l'altro l'impegno con la molla grande, che stava anche tocca a bocca, guarda, ho fatto dei collegamenti, guarda, non indifferenti, anche con una bocca, dopo comunicato con una pedoliera, dopo la cartolina, però quelle cartoline poi le mettevi, dentro come si chiama, dentro al invece di quelle donne che hanno tutti quanti, dietro, si sono salvati tutti questi, perché ce ne abbiamo, quelli sempre abbastanza di bravo, ce ne abbiamo, quelli che sono tutti, E io purtroppo per questioni di spazio ho dovuto buttare delle riviste, guarda, pensa, delle riviste che costavano, mi sembra 70 lire, se una cosa del genere, 70-80 lire, che puoi immaginare quanti anni erano, una cosa di 50 anni fa come minimo, e ho dovuto buttare per una questione di spazio quando mi stavo andando a casa, perché era lo spazio che non ce l'avevo, era una casa piccola, e allora per forza di cose ho dovuto eliminare tantissime cose perché ce l'avevo nella dispensa, ma ormai lo spazio era troppo ristretto e ho dovuto buttare. Ne ho riempito uno di quei cassoni della modesta, l'ho riempito di riviste, per carità. Sì, ne ho ancora un po', poi tra l'altro non l'ho più comprato, adesso non ne sono più comprato. comprando, non mi interessano più, anche perché se tutto sommato io hanno un costo anche, e non mi sono più interessato, insomma, ecco, ho lasciato perdere, anche perché per questo tipo di edifici hanno cominciato a diventare anche un pochino noiose, sempre le stesse stupidaggini, non facevano più le pubblicazioni che si facevano prima, ecco, e prima era molto più bello e non, poi invece hanno cambiato il sistema, capito io? Poi ho cioè che questo è proprio quello che devo dal 72, che c'è anche la pubblicità di Pesca Verde, e proprio perché quella elettronica ci sono tutti gli apparati, come stavano iniziando a pensare il POM, che ricorda, che ha preso i facce, gli HP23, devo farlo vedere, più pensi quelle elettronica che quello, infatti sono più fatto la vetrina, altrimenti quelli che fuori il fondo, e quindi ci sono tutti salvati, perché ce ne ho sempre a portata di mano e ce li ho tuttora e ci sono tanti, poi ci sono fondi di radio tecnica degli anni 70 e quelli lì io li sono salvati come vari apparecchi che sono, diciamo, quelli sono il giorno e tanto, se sono facce, sono capite, se sono tutti anche quei facce piccoli, i canali, i fondi, quindi un po' di roba l'ho salvata, diciamo, e tutte le serie dei disoccupati. Però non per forza di altre cose, hai capito, che eri meno interessato, quando capitava di fare polizia, era la serie delle prime che partivano. Sì, beh certo, e se a conservare tutto ci vuole magari da un appartamento solo per queste cose, ma no, non va bene. Anche perché io ne ho altre, ad esempio sei radio di quelle antiche, di Valvolari, addirittura alcuni che hanno anche i giradischi sopra, con lo sportello che si apre, e io di tutte le misure, grandi, piccoli, insomma è tutto io radio fra quelle a valvole ristrutturate e sia in, per quanto riguarda la parte elettrica e anche la parte mobile, tutto messo a posto, no? Nella mia sì, di quella radio lì. Poi in tutto, fra tutte le altre radio che ho, di ogni genere, anche di quelle altre sisto, batteria, eccetera, no? Che poi si possono usare anche a elettrico, in tutto ne ho almeno 25-27 per radio, una cosa del genere, in tutte le grandezze, in tutto, ma se a comprare radio, basta, non compro più tutti i soldi spesi, diciamo, in certo senso, inutilmente, capito? Infatti, quella radio che c'era la mamma, che l'ho messa sotto le favole, perché poi c'era il trasporto, che avevo a Claudio, diciamo, l'ultimo fino che era piccolo, ma lo sai che sapevo uno scatolone pieno di valvole, ma grande, ma pieno di tutti i tipi, me l'avevo regalato completamente, e un valvole nuovo, che ci fai, e cercando roba, col fratello, un giorno, figlia dello scaffale me ne l'hanno buttato in terra, non ci sono robe nel valvole più, però hanno preso il colpo, allora ho detto sì, senz'altro sono suonate, e ce le ho buttate in terra, ma tutti i tipi, che è un ok, sì, beh certo, ma è così, non puoi tenere tutte queste cose, anche televisore lo stesso, guarda lì, due che non mi sto usando il televisore, perché sono io, il televisore mio, uno nel salone, uno in cucina, giù in un'altra vermetta, uno nella prima notte, uno nella camera di mia figlia, ti puoi immaginare, tutti quelli li usiamo, ma poi ne ho altri due messi da parte, addirittura ne avevo anche uno in bottega, ne avevo, sino all'anno scorso mi ero guardato il Digio d'Italia, tutti i giorni mi guardavo il Digio d'Italia, avendo il televisore in bottega, l'accendevo, non è che mi fermavo a guardare, però lo sentivo, no? La telecronaca, e poi alla fine mi sono stancato e l'ho buttato via, l'ho portato alla discarica e l'ho via alla comune di Sassa, no? E l'ho buttato via, tanto non interessava più di tanto, se no se attendevi tutte queste cose che vai, se ne bisogna adesso qui, se ne è rimasto quello che guardiamo, tutto girando, aveva dei problemi e poi anche questo fatto fuori, e siamo andati con mia moglie a comprare, diciamo, il televisore, un altro televisore, e sono tutti a schermo piatto, sono, ed è una sera qui era stato, comprato, però siamo pochi, mi aspettarmi un altro, giusto per mettere un camera da letto, sempre pochi, e non lo puoi danzare, si è congiunto, quindi bene il suo contatto più forte. Quando se vuoi niente, se non si è appuntato, e siamo andati a portare il traffico 3 milioni, non è il suo più. No, no, non ci sono più di quelli a Cinescopio, ormai non ci sono più, sono tutti quanti o al plasma oppure a LCD, quelli sono adoppiati, piattissimi. Io ne ho comprato uno nemmeno un mese fa anche per la stanza di mia figlia, ne puoi immaginare, quello non molto grande, 22 pollici quello, ma per una stanzetta della ragazza va benissimo, non è, se lo puoi, ho quello grande nel salone, quello è grande, abbastanza grande, dove io lo seguo tutti gli eventi sportivi generalmente, tipo che so io, il motociclismo, le partite di calcio, eccetera, eccetera, tutte queste cose così, e quello funziona dalla mattina alla sera a casa, quello si accende la mattina e si spegne la notte e mezzanotte. Comunque ti puoi immaginare, no, lui a 3 milioni lo assuntiamo abbastanza, perché lui e in famiglia siamo in tre, io, mia moglie e mia figlia, ecco un'altra caduta, intanto sto vedendo, un'altra caduta, un'altra quarantina di colui, tutti a terra, che bello, povera cieca, c'è qualcuno forse che si è fatto male, forse il campione del mondo che si è fatto male, perché quello lì sta facendo la difficoltà ad alzarsi, vabbè, e stavo dicendo, che noi non utilizziamo molto i televisori, quindi la sera ad esempio io rimango nel salone fino a tardi, vicino a mezzanotte, una cosa così, o per guardare politica, o per guardare sport, o mi guardo il film, eccetera, mentre mio moglie lo si curica prima, però lì c'era in camera anche, e invece ero seguo in camera la televisione, io mia figlia altrettanto si curica, c'era in camera sua, sì che per il solito il televisore è acceso, tutti i santissimi giorni, io già. E infatti, ma anche se c'è più assenso, perché prima perché erano disponibili i bambini animati, servo, se ne ho figlio, che si poi appassionato per me molto, e capite da sempre, da un po' di canale, oggi, stamattina, dopo un altro, la Superbike, siamo avanzati, sì, sì. Era quello che mi ricordo, direi, mi ricordo, se ne può passare un altro. Ti volevo chiedere una cosa, ti ho fatto i ricordi il padre Brown che mi ha fatto? Ti ha sentito più di capita, ero un sacco di anni, non l'ho più sentito, non so nemmeno se esiste ancora, figurati, per me sì, ma non lo so, non so tutto più niente, ma non solamente il padre Brown, ma di tantissimi. Tantissimi amici, tanti li incontro magari, mi dico perché non rientrate per questo, perché non rientrate, no, non mi sono ci preso blu, giù, io va, c'è per quello, oppure ci mancano anche le donne, non ci mancano anche le donne, non c'è più nessuno, non è ormai finita, diciamo che la frequenza non da oggi, ma da un paio di anni, da qualche anno, la frequenza è tutta finita, a livelli di grande afflusso di gente con partecipazione, capito? Sì, da quando ero iniziato il computer da lavorare su internet, e quello lì diciamo è stata diciamo proprio la chiusura di certe persone che hanno preferito cantare invece di stare alla radio. E non so, io se veniva sempre, la sei conosciuta, Pinuccio Emerson. Sono tutti i nomi che rimangono nel passato e che non rientrano più in frequenza, non è possibile, no, la gente non ci pensa più, che va, ripeto, tanta gente, anche da poco qualcuno aveva delle apparecchiature, se le ha vendute, se le ha, adesso io lo faccio numero in frequenza, chi verate, se le ha vendute, ma cosa me ne faccio? Dice, ho acceso un giorno, dice, maestro, esattamente questa, avete fatto, facevate schifo per il commento, per in questo ecco stavate facendo, no, aspetta, è tanto schifo, forse fai tu e non lui, e gli ho risposto, dunque, non c'è che, no, volevo dire, cerca di moderare parole, volevo dire facciamo schifo, non credo che noi facciamo schifo a nessuno, perché nessuno fa schifo a nessuno, non è un modo di parlare questo, se tu non ci vuoi entrare nessuno ti sta obbligando, però non è detto che devi parlare nei confronti della gente in questo modo, se no scusa non volevo dire quello, non volevo offendere nessuno per carità, però non si mette, va bene, d'accordo, non è nessuna intenzione di entrarci, nessuno ti obbliga, per carità, e io non so cosa vuoi dire, nessuno ti sta obbligando a diventare frequenza. Se non ti vanno in centrale, basta, continueremo noi, tutto lì già. Io sono sempre a volte, molte infatti, non hanno il popolo più, adesso ci avranno anche a cassetta, o per dire antenna è andata male, ma diciamo se non lo abitano, arrabbiarsi non sentono, non hanno più quella abilità che ne hanno a volte, poi niente, capito, e forse diciamo le persone, perché sono andate adesso da sollecito il computer e hanno tutto, vediamo, però la frequenza a me che mi è sempre piaciuta, io ho sempre, diciamo, continuato ad avere gli apparecchi, anche se non entravo, ero sempre legnosi, perché mi prendiamo i vari buoni, però fatto la loggia, e così, ho fatto una cifrata con Francesco, e tutto il fatto, e se tu ti accende, per dire, così come anch'io ancora. Beh, quando c'è qualcuno che si sente si fanno due chiacchiere, perché no, ma poi dai a dire certe cose nei confronti della gente non va bene, questo non sono d'accordo, il primo sono io, anche se non mi toccano personalmente, ma il primo sono io a difendere gli amici, perché se io ci parlo con quelle persone, perché evidentemente mi fanno agire, io ci parlo e basta, perché a te poi non te ne frega niente di andare a offendere nessuno, capito? Perciò prendo il riferimento che forse faccio un errore, anzi sicuramente faccio un errore, perché se dovessi poco a poco essere coerente, che lo sono, con le mie idee, devo dire che faccio anche un errore a difendere me tante volte certi argomenti, eccetera, però se io ci so, tu a me non mi puoi assolutamente trattare in quella maniera, capito? Né a me né agli altri, capito mia? Per quanto riguarda il discorso che ci avevamo preoccupato di proprio delle reali di queste diretti di fronte, ogni tanto non solo con gli altri, anche io mi metto a fare qualche, diciamo, modifica, qualche cosa che quando l'ha fatto, aumentare le cifre, però quando si fanno queste cose si riparta, diciamo, la persona con l'altro e gli altri canali che non si sono questo. Facendo queste prove, promette di lasciare in bianco la gente poi si stupendo anche e si creano dei malumori e anche quello non è più per cui mi hanno lasciato in bianco. Sai cosa ti dico adesso? Tu mi hai toccato questo caso qua, da voi ne vengono, diciamo, un po' tutti questi amici che ci sono con la luce per questa, vengono un po' tutti, e devo dire che mi fa piacere quando vengono a salutarmi, e a volte ne parliamo anche di questo fatto, e devo dire che la maggior parte della gente è contraria a queste cose, però dico questo, ma se a te non ti interessa, questo non significa... Significa assolutamente criticare quello perché mi ha chiesto per prendere il controllo, non ti interessa, non c'entrare, non è così a te non te ne chiede di controllo, tutto lì, capito? Però sinceramente, se devo essere coerente con le mie idee, anch'io devo dire che non mi piacciono queste cose, però non vuol dire che non possa fare una cortesia o possa fare un questionario con le persone che ci stanno, perché no? Preferisco se non me lo chiede, se non me lo chiedo, soltanto se dici male, te lo dico io sono fatto così, capito? Se poi uno vuole fare il mio problema, vuole passare una strada intera facendomi sentire il suo eco, il suo microfono, questo può anche starmi bene, ma se non c'è un punto, quando vuoi stanco chiudo e basta, ma non per questo vado a criticare o vado a rinnegare l'amicizia di una persona, capito? Dunque, sono loro che ci hanno chiesto di spostarci qua, ma non è niente di particolare. Questo canale si è sempre detto che sia un canale riservato alle, diciamo, all'emergenza, eccetera, ma di emergenza io in 40 anni quasi di radiofrequenza non ho mai sentito su questo canale, né su questo, nemmeno tanto meno su quello sul 19, perciò va, comunque c'è quel problema, ci possiamo anche spostare. Dipende, Gianni, io mi sto guardando il finale che stanno arrivando in volata, dai, mi sto guardando, scusate, dipende, fra 3 minuti. Ha detto. Possiamo utilizzare il canale, buonasera la famiglia. Buonasera Gianni, ben sentito. Sul canale 10, cosa metto? Il 19 è riservato alla protezione civile questo canale, è meglio lasciarlo libero. Ok, passiamo su 10. Giulio pure in pasta 10. Ha detto. Sì, però mi stavo mettendo un po' di cassetti qua della dove io ho la mia stanza. E così mettono a posto tutti i documenti dell'esamente eccetera, delle radio. Ha detto, mi lo giornalino, porca mia, io cercandolo, perché sono già 2 o 3 fogli, quindi stampati poi invece.